I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Vi mostrerò degli oggetti e voi mi mostrerete dove sono situati. Vi mostrerò degli oggetti e voi mi mostrerete dove sono situati. Show me where the envelope is. Mostratemi dove si trova la busta. Mostratemi dove si trova la busta. Show me where the key is. Mostratemi dove si trovano le chiavi. Mostratemi dove si trovano le chiavi. Show me where the razor is. Mostratemi dov'è il rasoio. Mostratemi dov'è il rasoio. Show me where the glass is. Mostratemi dov'è il bicchiere. Mostratemi dov'è il bicchiere. Show me where the pencil is. Mostratemi dov'è il pennarello. Mostratemi dov'è il pennarello. Show me where the phone is. Mostratemi dov'è il telefono. Mostratemi dov'è il telefono. Show me where the watch is. Mostratemi dov'è l'orologio. Mostratemi dov'è l'orologio. Show me where the scissors are. Mostratemi dove sono le chiavi. Mostratemi dove sono le chiavi. Show me where the comb is. Mostratemi dov'è il pettine. Mostratemi dov'è il pettine. Show me where the glasses are. Mostratemi dove sono gli occhiali. Mostratemi dove sono gli occhiali.